Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, bentornati, sono le 16.07, sono Luca Tremolada. Oggi parliamo di libri come contenitori, sono con Sandro Mangiaterra. Oggi avremo, buongiorno a tutti. Avremo le tre stagioni del libro, no? Avremo il libro elettronico, il libro antico, il libro moderno. Esattamente, cioè qualcuno ricorderà ovviamente Fahrenheit 451, no? Il film di fantascienza di Truffaut, tratto da un libro di Ray Bradbury. E il libro era considerato in Fahrenheit 451 pericoloso per la società, no? In quanto fonte di libertà. Adesso c'è un altro pericolo, qualcuno dice che c'è un altro pericolo, qualcun altro lo chiama invece una straordinaria opportunità sul libro. E appunto il libro cartaceo, qualcuno dice, è destinato a scomparire. Perché? Perché si leggerà tutto sull'ebook, sul digitale, no? Sul Kindle. Ecco, noi proprio perché anche tra l'altro su sollecitazione dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto e vogliono capire un po' di più di questi scenari che si profilano sul libro vecchio, il libro antico, cosa succederà, cosa resterà. Ci sono gli amanti della carta. Ecco, tra l'altro diamo il numero di telefono 824 0024, l'SMS 349 238 6666. Così abbiamo deciso di fare un confronto un po' all'americana sulle tre stagioni del libro, ecco. E noi partiamo da un imprenditore che nella carta, nel libro di carta, continua a crederci, e come, e continua soprattutto a investirci, perché anche il libro di carta è soggetto a una grandissima innovazione tecnologica. Cioè non c'è solo l'ebook, l'high tech, anzi. Ma anche lo stesso libro di carta è al centro di una stagione di grandissima innovazione tecnologica. E tra l'altro non a caso noi siamo in collegamento con Fabio Franceschi di Grafica Veneta, e lo salutiamo, buongiorno. Buongiorno. E proprio anche perché in questi momenti in cui non si capisce su cosa leggeremo i libri nel prossimo futuro, insomma, i vecchi supporti cambiano, i vecchi supporti devono innovare, i vecchi supporti devono inventarsi cose. Però prima di entrare direttamente nel merito, sentiamo la scheda, chi è Fabio Franceschi. Nel 2001 fatturava 3 milioni e aveva 30 dipendenti. L'anno prossimo il fatturato supererà i 100 milioni e gli addetti saranno 270. Bastano queste cifre per riassumere la crescita della Grafica Veneta di Trebasseleghe in provincia di Padova. E la crescita non ha subito rallentamenti nemmeno in tempo di grande crisi. Più 50% di ricavi nel 2008, più 20% nel primo semestre del 2009. Un successo che porta la firma di Fabio Franceschi, 40 anni, arrivato alla guida dell'azienda poco più che trentenne. Franceschi ha puntato sull'internazionalizzazione. Dai mercati internazionali proviene il 75% del giro d'affari e soprattutto sull'innovazione. Sono stati acquistati macchinari ad altissima tecnologia di cui dispongono pochissimi concorrenti al mondo. Oggi la Grafica Veneta è un'azienda gioiello nel settore. Controlla il ciclo completo della composizione e della stampa del libro ed è in grado di portare a New York 50.000 copie entro 48 ore. Non a caso ha avuto l'esclusiva mondiale per la stampa della saga di Harry Potter e confeziona le opere di Dan Brown per mezza Europa. Ora Franceschi ha deciso di raddoppiare lo stabilimento e di investire altri 35 milioni in innovazione. La grande sfida è il passaggio dalla tecnologia offset alla stampa digitale. Allora, innanzitutto ci facciamo un po' spiegare il maghetto, mi sembra. Sì, ci spieghi allora, Franceschi, quante copie di Harry Potter avete stampato fino ad oggi per tutto il mondo? E poi magari anche ci spieghi un attimo, ci sveli qualche retroscena. Come avete fatto ad acquisire l'esclusiva mondiale di Harry Potter? Non è che avevamo un'esclusiva, sicuramente avevamo un ottimo rapporto con i vari editori dei vari paesi. In Italia il nostro Harry Potter era editato dalla Salani, che è un nostro primario cliente, e diciamo che si sono trovati bene con la prima edizione che è stata fatta un qualche anno fa, e poi siamo riusciti a coltivare buoni rapporti con tutti gli editori europei. Insomma, sicuramente mi sembra dell'ultimo titolo di Harry Potter ne abbiamo stampate più di 9 milioni di copie in Europa, e il mercato che ci ha dato più soddisfazione è stato quello francese, perché riuscire a stampare l'Harry Potter per la Francia per noi abbiamo avuto la stessa soddisfazione di far correre Sarkozy su una Maserati. Ecco, questo per noi è stato un grande obiettivo. Ecco, ma noi da inizio della puntata ci stiamo domandando la seguente cosa. Insomma, i dati raccontano che poi in un paese come l'Italia si legge a poco rispetto ad altri paesi, il libro è in un momento di forte riflessione e di crisi. Che cosa state immaginando? Cioè, che cosa significa per voi innovare? È un lavoro di maquillage sulla copertina, sui materiali, oppure riguarda proprio il processo produttivo del libro? Beh, per noi innovare significa rendere l'editore sempre più competitivo, che possa avere sempre più marginalità, che quindi possa investire nella propria attività e produrre sempre più titoli. Quello che abbiamo cercato di fare in questi ultimi anni è di poter dare l'opportunità all'editore di avere dei costi sempre più contenuti e dei tempi sempre più contenuti, con la possibilità di poter ristampare in tempo reale e avere l'opportunità di riuscire a non avere nessuna potenziale vendita inespressa. Quindi per darle un dato, il nostro titolo che in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni è Uomini che odiano le donne, certo, la trilogia di Larson, che è partita un po' in sordina per poi arrivare, che ristampavamo per ogni titolo 20.000 copie al giorno, dalle 15 alle 20.000. Questo ci portava a dover quotidianamente ristampare un titolo con l'attenzione che ci doveva essere per un titolo che stava andando, quindi riuscire a rifornire quotidianamente i distributori, essere attenti che siano sempre qualsiasi libreria rifornita di questo prodotto, e lì il servizio. Quindi ci faccia capire, ecco, vai. No, quindi il just in time del libro, Franceschi. Diciamo che in alcune situazioni ti devi adattare, queste sono le esigenze che hanno i nostri... Del mercato, insomma, del mercato internazionale. Diciamo, l'esigenza del mercato nazionale è questa, sono queste le esigenze. Il mercato internazionale è simile, perché magari avrà dei tempi di reazione, magari a volte un po' più lenti, un po' più veloce, però le problematiche sono sempre le stesse quasi in tutto il mondo. Quindi non c'è un tema di qualità, cioè non c'è un tema di carta, non c'è un tema di materiale. Il libro è come lo conosciamo, l'innovazione qual è? Che insomma diventa on demand, cioè per cui io voglio 3 copie, ne faccio 3 copie, ne voglio 50, posso diciamo togliermi lo sfizio di diventare uno scrittore e vengo da voi e mi stampo insomma le copie per la mia famiglia. 500 copie, così Franceschi? Diciamo che a oggi un quantitativo minimo sono le 500-600 copie. Penso che in uno stato giro di un 5-6 mesi si potranno tranquillamente editare anche le 20 o 30 copie con dei nuovi processi digitali. No, perché tra l'altro anche su internet sono moltissimi gli editori che si stanno affacciando e si pongono anche sul mercato come editori istantanei, cioè ti faccio il libro, te lo stampo, te lo produco nel numero di copie che vuoi. E tra l'altro, quanto costano 500 copie? Ma il costo di un titolo va sempre da 1 euro a 2 euro a copia, poi insomma la tiratura media fa sempre da padrone sul costo finale del prodotto, però stiamo parlando sempre di cifre abbastanza contenute. È per questo che noi siamo abbastanza sereni che l'ebook sicuramente sarà uno strumento performante per certe tipologie di prodotto, ma non andrà a sostituire il libro cartaceo, perché alla base di ogni rivoluzione di qualsiasi mercato c'è sempre un aspetto economico che porta a innovare alcune situazioni. L'ebook non va, per quanto ci riguarda, a dare un taglio importante ai costi, più che altro va a mettere in discussione, a creare, a supportare tutta questa pirateria che di fatto potrà essere il problema, la morte di alcuni editori, perché in questo momento qualsiasi prodotto che va a finire sulla rete è fuori controllo e va a perdere tutto quel valore che bene o male può avere un testo, un titolo, una serie. Ecco. Quindi Franceschi, lei dice: io sono convinto che il libro cartaceo non sparirà. Io sono convinto che semmai si creerà un secondo mercato parallelo che andrà a impattare su target nuovi, diversi, ma che il libro cartaceo non sparirà. Beh, sicuramente il libro cartaceo non avrà un futuro così in discussione, ecco. Ci saranno alcune fasce, tipo i codici, tipo certi prodotti di accesso immediato che prendiamo ad esempio un codice per alcuni avvocati, legali o strumenti di lavoro immediato, che l'ebook sicuramente è più comodo perché uno con un PC si porta presso una libreria. Però non credo che questo metta in discussione tutta quella letteratura, tutte quelle librerie, tutte queste Sì, ma infatti proprio per questo, a parte che noi poi ci raggiungerà anche Antonio Tombolini, che insomma è il paladino degli ebook. Tra l'altro ho qui un dato, insomma, il fatturato mondiale del libro elettronico nel terzo trimestre del 2009 ha raggiunto i 46 milioni e mezzo di euro, che non è tantissimo. Però la cifra dello stesso periodo del 2008 era 14 milioni, per cui insomma è triplicato, cioè, per cui ovviamente siamo a cifre modeste, ma crescita significativa su queste. Ecco, aspetti Franceschi, perché noi qui abbiamo Natale Codina, che è proprietario di un'antica legatoria d'arte. Tra l'altro è arrivato qui in studio con degli oggetti preziosissimi e bellissimi, che volendo è Sandro, è l'altra faccia del libro, cioè il libro bello da vedere, il libro di valore, il libro antico. La nicchia del libro d'arte, del libro artigianale, bello al tatto, bello da vedere, profumato, è una nicchia che Franceschi forse è più protetta della sua, o sbaglio? Sì, no, beh, questo è un libro di quella qualità e di quel genere, sicuramente è un patrimonio che quasi viene lasciato in eredità ai figli, quindi non lo vedo. Infatti Codina è il figlio di Giovanni Codina, che ci sta ascoltando in questo momento, che è l'artigiano del libro. Ecco, Natale Codina, lei ci ha fatto vedere, tra l'altro noi abbiamo pubblicato sul Twitter di Nova Lab 24, che è www.twitter.com/NovaLab24, l'indirizzo, il sito internet di Giovanni Codina. Sfogliatelo perché vedrete delle foto strepitose, tra cui il libro più piccolo del mondo, che quanto è grande? È un centimetro per un centimetro e mezzo. Che è un centimetro, bellissimo, fatto proprio. E quante pagine ha? Sono circa 250-300. 250. Non è di facilissima lettura. No. C'è allegato anche il volume leggibile, diciamo, nella confezione che è stata fatta. E poi tra altre molti altri libri che voi fate, insomma. Certo. Cioè, volevo prima fare una precisazione, sì, se possibile. Siccome sono sì proprietario della legatoria Codina, ma insieme ai miei fratelli e mia sorella. Ecco, voi non vi sentite attaccati dall'ebook? Ma dipende, perché ovviamente laddove c'è un aggiornamento è logico che, come diceva prima, nei codici, è logico che un codice deve essere aggiornato, una legge diciamo per il commercialista deve arrivare in tempo reale, si aggiorna automaticamente o con i dischi o direttamente dall'internet, per cui in questo senso è la logica del futuro, guai a andarci contro. Logicamente noi dobbiamo far saper valorizzare le cose cose che purtroppo andando avanti diventano sempre più difficili sia da realizzare che da pianificare, perché logicamente siamo in una realtà imprenditoriale e dobbiamo tenere assolutamente conto di questo. Ecco, io non sono il legatore della legatoria Codina, ma spero di essere un buon gestore d'azienda. Ecco. Io provengo da un altro settore, sono laureato in economia e ho sostituito 5 anni fa il papà, che all'epoca aveva 81 anni, oggi ne ha 87, quindi va bene antico per i libri, il papà sarà un po' anzianotto. Ma la gestione è moderna. Ecco, ma mi spiega una cosa, perché io ho visto nel suo sito, voi fate i libri rotondi per esempio. Cioè... Diciamo che facciamo ciò che ci viene commissionato, spesso lo progettiamo insieme all'editore o a volte per conto dell'editore, dipende da quello che ci viene commissionato. All'epoca c'era questo editore nel settore termotecnico o termodinamico che però aveva un hobby, collezionava medaglie napoleoniche. Ovviamente le medaglie sono tonde e il suo desiderio di numismatico e di editore era quello di realizzare un volume che anche all'esterno facesse, come si può dire, riconoscere il contenuto, come spesso ci capita con gli architetti. Con gli architetti facciamo le confezioni dei progetti che presentano, ovviamente noi non è che facciamo il libro in funzione di un progetto, una gru eccetera, però logicamente l'aspetto grafico, incisoria eccetera, la possiamo riprodurre un parte nella... Quanto costa un libro rotondo? Cioè, tanto allora che... quando è uscito nel 77 costava 6 milioni perché c'è 1,5 kg d'argento che la produce la medaglia, il taglio oro fatto a mano, e se lei sa che è difficilissimo fare il taglio oro in piano, le lascio immaginare sulla tondità del volume come può essere difficile, tutti i mordenti scivolano via, insomma, devi far ruotare. Un'altra cosa che mi ha fatto vedere è un libro fatto con la gomma del pallone da basket. Sì, questo è stato un progetto del 2003, se ricordo bene, perché c'era un evento di uno sponsor di una squadra di basket che doveva presentare la squadra e l'oggetto che teneva in mano voleva che fosse, diciamo, coerente con l'attività che lui andava a sponsorizzare, quindi ci chiese un qualcosa che aveva attinenza con il basket. Noi abbiamo trovato diciamo quel che non è un tessuto, è una specie di gomma che viene usata per il pallone da basket, e lo abbiamo modellato e inciso nei disegni riproducendo graficamente il disegno del pallone da basket, per cui nella forma del libro lei identifica subito il suo contenuto, che è il basket. Quindi Codina, si può fare tutto, si può fare qualsiasi forma, qualsiasi, se siamo qualsiasi formato anche sì, di un centimetro per un centimetro e mezzo, però con le tecnologie artigianali, quelle, la riscoperta della manualità, certo, di una volta. Certo, certo. Io, se posso permettermi di fare un complimento al signor Franceschi, sì, nel senso a lui come categoria, sì, ovviamente io non entro nello specifico. Lei è un po' un artigiano, si ritiene voi vi ritenete degli artigiani? No, sa perché volevo fargli i complimenti? Al settore? Prima di tutto perché noi nel settore dell'industria e nel nostro settore, che io parlo fino a 999 copie, che è l'edizione considerata di pregio, siamo superiori ai francesi, i quali nel singolo libro sono dei maestri, però nella produzione non ci sono mai cimentati in queste difficoltà produttive, e questo bisogna avere per fare questo bene bisogna avere un'ottima organizzazione, ovviamente un'ottima conoscenza tecnica della materia, e poi logicamente saper lavorare bene, logicamente. Quindi Franceschi ancora in linea? Sì. No, perdoni, volevo concludere il complimento, che era dal punto di vista mio legatoriale, perché i bravi stampatori abbinati ai bravi legatori industriali, e devo dire che la qualità della legatura industriale è diventata, secondo me, eccellente. Anche da un punto di vista quasi quasi del singolo libro, li fanno talmente bene. Vedi, l'artigiano che insomma l'industriale riconosce il merito dell'industriale. Però insomma, Franceschi, lì Codina diceva: noi invece andiamo sulle tecnologie tradizionali, artigiani. Invece voi le tecnologie, l'innovazione tecnologica avanza, no? Lei sta investendo, e mi diceva, una svolta epocale, questo passaggio alla stampa digitale. In estrema sintesi, ci spiega di che cosa si tratta e che significa? Diciamo che fino ad oggi, bene o male, alla base di tutti i processi, la legatoria bene o male è un po' più evoluta tecnologicamente, ma si basa sempre sui stessi processi, quindi impianti sempre molto più performanti, sempre più qualitativi, però i fondamentali di lavoro sono sempre gli stessi. Nella stampa, che è un po' nel processo dove ci sono dei cambiamenti abbastanza importanti, potrei dire ci sta aggiornando in modo fondamentale, ad oggi era sempre basata sulla stampa offset, quindi acqua inchiostro. Penso che nei prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti importanti, perché tutta la tecnologia digitale sta guardando con attenzione a questo settore, portando delle iniziative e dei nuovi processi di stampa che sono molto produttivi sotto l'aspetto produttivo e molto performanti per quanto riguarda i costi iniziali di avviamento e di investimento per ogni singolo titolo. E noi stiamo guardando con molta attenzione questa evoluzione che, le dico, è in atto da 5-8 mesi, anche un anno, però in questi ultimi 2-3 mesi veramente si sta tutte le più grosse e potenziali case costruttrici di impianti si stanno guardando con attenzione per riuscire a produrre degli impianti molto performanti, e noi stiamo guardando con attenzione queste nuove tecnologie, perché sono sicuro che nei prossimi mesi ci sarà una svolta, posso dire quasi epocale. Ecco. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Quindi prima una correzione: tre baseleghe, no? Credo di sì, Franceschi. Tre baseleghe, no? Tre baseleghe, sì. Ok, ci alla siamo, Padovana. Alla Padovana. Allora, noi stiamo parlando di libro antico, libro moderno. Io sto un po' mettendo in discussione le mie idee. Io sono abbastanza per il Kindle, per la lettura, anche perché quando li ho visti li ho trovati stupefacenti, questi display dove posso, cioè, facili da tenere in mano. Però vedendo i libri antichi di Codina, insomma. No, io invece appartengo a quella fascia di età che ho quasi oggettive, o direi quasi visive difficoltà a leggere sulle book. E invece si legge bene, Quindi perché io dentro di me sono... Non sei così vecchio, Sandro. Però sono portato a dare ragione a Franceschi, insomma, cioè che ecco, ma il libro noi... di carta mi viene bene e poi so dove sono arrivato e ci metto... Il fermacarte, come si dice? Sì, però quando ha tante pagine la sera da tenere in mano. Comunque, al di là delle discussioni, i miei problemi con Mangiaterra, noi abbiamo in collegamento Antonio Tombolini, è la seconda volta che lo ospitiamo in trasmissione, di Semplicissimo Book Farm. Insomma, per Tombolini, per usare un'espressione, la carta non dovrebbe più esistere. Prima Fabio Franceschi di Grafica Veneta diceva sì, però attenzione che gli ebook di fatto possono alimentare un fenomeno di pirateria. Tombolini. Sì, buonasera a tutti intanto, e grazie dell'invito e grazie anche agli altri ospiti delle cose che ho ascoltato. Vorrei intanto dire che ho sotto mano una cosa di cui vorrei fare pubblicità, se si può. È una rivista che si chiama Tipo Italia, è il secondo numero che esce, ed è una rivista tutta dedicata alla tipografia, alla carta di qualità, eccetera, alla grande tradizione italiana che c'è in questo campo. Questo lo dico, uno, perché per gli amanti del genere come me è una rivista che vale la pena di andarsi a prendere, ma due, perché la prima cosa che vorrei sottolineare è che... Ha cambiato idea? No, assolutamente, dal punto di vista personale, ma credo anche di tutti quelli che si sono avvicinati e si stanno avvicinando al mondo degli ebook, è evidente e quasi ovvio il fatto che in realtà si tratta di una continuità di amore per il libro che trova espressione su supporti diversi, e quindi francamente trovo piuttosto artificiale, forse poco felice, coltivare continuamente soltanto un aspetto di contrapposizione per dire che ma l'ebook rischia di alimentare la pirateria, a cui si potrebbe rispondere i milioni di copie cartacee di cui poi l'80% restano invendute magari alimentano qualche emissione di anidride carbonica di troppo o tante altre cose. Gli alberi. Insomma, voglio dire, è evidente che 10 sono aspetti evolutivi, come ci sono sempre stati. Nessuno di noi si sognerebbe di dire che il più bel libro stampato oggi sia più bello di un codice miniato fatto dall'amanuense, certo, prima della stampa mobile, no? Perché questo mi sembra ovvio e scontato, ma nessuno di noi oggi si sognerebbe di dire che quella svolta epocale non sia stata effettivamente la benvenuta, perché ha allargato la circolazione del sapere, della cultura, dei libri e la sua diffusione. Quindi credo possiamo, cioè, per essere un po' salomonici, cioè, esisteranno tutte e due, viene da dire, forse è un troppo salomonico, Sandro, cioè. No, certamente è un fattore evolutivo e c'è una semplificazione giornalistica, no? Cioè la carta scomparirà, leggeremo soltanto sui telefonini, come faremo, per fortuna. Quindi ha ragione Tombolini quando dice che c'è questa semplificazione un po' appunto di giornalistica, insomma mediatica. Però quello che appunto vorrei capire è se l'ebook potrà affermarsi. Tra l'altro in Italia abbiamo avuto dei tentativi un po' anche falliti, anche abortiti in passato. Io ricordo la Mondadori 10 anni fa lanciò forse strategicamente proprio prese la decisione di lanciare i primi ebook e poi tornò indietro. Ecco, quello che vorrei capire, faccio un esempio a Tombolini e dico, l'ebook si affermerà come si è affermato il cellulare, cioè diventerà un strumento che ci accompagna ognuno di noi, anzi noi poi abbiamo un cellulare e mezzo ogni italiano, ecco, però diventerà uno strumento esattamente di uso comune come il cellulare o resterà un fenomeno di nicchia o amplierà il digital divide generazionale? Ma io su questo vorrei dire che ahimè temo che non diventerà mai come il cellulare, però per un motivo poco bello, nel senso che purtroppo i lettori di libri sono meno dei chiacchieratori al cellulare, per così dire. Detto questo, però, credo che ormai sia abbastanza evidente che è una tecnologia che ha raggiunto un punto di svolta rispetto proprio a quegli esperimenti che lei citava, relativi al formato LIT, agli ebook, diciamo, già di 10-15 anni fa, proprio perché il brevetto, che la tecnologia che dà vita a tutti questi lettori ebook, va nella direzione della visualizzazione analoga a quella che abbiamo con la carta stampata, e quindi effettivamente una facilità d'uso, ma soprattutto lettura. Io vorrei insistere su questo, nel senso che si parla continuamente anche di telefonini eccetera. Gli ebook reader, grazie alla tecnologia inchiostro elettronico, sono un cambio radicale rispetto alla visualizzazione a LCD, e chi l'ha visto se ne può rendere conto. Esatto, cioè bisogna vederlo, nel senso che di fatto non è come leggere sul computer. Si può anche forse spiegare, posso tentare, ma proprio brevissimamente, concettualmente è semplice. Qualsiasi monitor digitale che siamo abituati a vedere, piccolo o grande che sia, quello che vediamo lo vediamo perché si accendono i pixel e quindi l'occhio è colpito da radiazioni luminose. Questo affatica l'occhio e consuma la batteria del dispositivo. Con gli ebook reader è vero il contrario, come per la carta, quello che vedo lo vedo grazie alla luce esterna, perché mentre leggo lo schermo per è cui letteralmente non si stanca l'occhio. Spento, tra l'altro Tombolini, c'è un ascoltatore dice una cosa che tra l'altro sosteniamo anche noi a Nova, cioè i romanzi sulla carta e l'editoria specializzata scientifica troverà sul supporto digitale un veicolo incredibile, per cui è molto probabile che ci sarà anche una divisione per contenuti, cioè non è detto che sull'ebook, per esempio, si potranno inventare delle cose, si potrà parlare di fumetto digitale, per cui non so, io una strip la clicco e sento un file audio, cioè probabilmente si inventerà anche un altro tipo di letteratura, tra virgolette. L'editoria scientifica si presta. E poi, come anche diceva Franceschi, la manualistica. La manualistica, esempio, no? Anche. L'editoria scolastica, la manualistica. È evidente che invece per altri contenuti, insomma, ci sono moltissimi sms che parlano di carta, del piacere della carta, dello sfogliare la carta. Cioè, insomma, quello è tutto un altro. Io, io voglio avere un po' così anche la speranza, ma credo che sia abbastanza fondata guardando a quello che è accaduto in settori contigui come quello della musica, che tutto sommato il progressivo avvento della fruizione digitale di libri porti anche al miglioramento della stampa su carta, nel senso che credo che avrà comunque più chance di sopravvivere in questo contesto la produzione, la stampa di libri su carta di qualità migliore, perché tutti noi che amiamo il famoso profumo dell'inchiostro eccetera, o il tatto della carta, diciamoci francamente, quante sono le cose veramente belle che ci passano per le mani e quanta è invece la carta di cui potremmo fare volentieri a meno perché è di bassa qualità e di stampa di qualità molto bassa. Beh, qui forse possiamo sentire Franceschi se una precisazione comunque. Il fatto dell'ebook sicuramente è uno strumento molto performante e molto interessante. Il concetto dell'ebook però è che abbiamo una rete che non è governata, cioè un contenuto che passa attraverso una rete, e chi ha un Dan Brown venduto esclusivamente tramite la rete, penso, se gli va bene, riuscirà a venderne 1000 copie, perché i rimanenti sono tutte copie che vengono copiate o pirateria pura. Quindi ecco, sicuramente l'ebook è uno strumento interessante, necessario, però si pone a un altro livello dal libro classico, quindi ecco, vorrei che fosse ben chiaro questo. Però ecco, secondo me l'ebook è chiarissimo, dice sì, attenzione però che su internet, quando una cosa viene appoggiata a internet, l'indotto di pirateria è violentissimo. Beh, prima ha fatto Tombolini, mi sembrava avesse fatto l'esempio della musica. C'è un caso carino: i Radiohead misero in vendita l'ultimo disco a offerta libera sulla rete, con grande stupore scoprirono che erano il 90% non avevano offerto nulla, neanche un mezzo dollaro, certo, per comprare il disco dei Radiohead, e anche i Radiohead furono, come dire, un po' scornati da questa cosa. Sì, però ci furono altri casi. Adesso io qua ho un'idea un po' opposta, nel senso, io credo che se tu su internet non ti limiti semplicemente a mettere ciò che funziona sul mondo fisico, ma appunto metti dei valori aggiunti, metti le immagini, metti altri contenuti, la gente è disposta a pagare. Questa chiaramente è mi auguro di sì, ovviamente. È un tema di temi. Anche abbiamo il giornalismo è finito. Infatti, noi abbiamo fatto un po' di puntate. Dei Radiohead, che era il nuovo disco dei Radiohead, in effetti dà un po' ragione a Franceschi: la rete è difficilmente controllabile. Comunque, questa è la rispondere a queste domande, cioè rispondere a cosa siamo disposti a pagare su internet o in digitale, è un grandissimo tema. Poi è curioso che quando si parla di contenuti si torna sempre a bomba su questo tema. Bene, io ringrazio Fabio Franceschi di Grafica Veneta, ringrazio Antonio Tombolini, purtroppo il nostro tempo è scaduto, e ringrazio anche Codina, Giovanni Codina e Natale Codina. Grazie a voi. Nova Lab 24. Allora, torniamo alla carta in un certo senso, perché torniamo a parlare di Nova 200, insomma si festeggiano i 200 numeri di Nova, abbiamo Priangelo Soldavini che è un po' vecchio come la carta. Dai, facciamo. E non arrivo però a 200. Happy birthday to you, happy birthday to you. Però posso proseguire la metafora della carta e del digitale, perché mentre ascoltavo mi veniva in mente, certo, 9 di carta, ma... Cosa, noi siamo partiti dal 200 per dire che cosa? Sono anche 200 anni di che cosa quest'anno? Oddio, di che? Tremolada è rimasto un attimo. Sono i 200 anni di Darwin, dell'evoluzionismo, quindi, della teoria dell'evoluzionismo. Vediamo dove quindi vuole arrivare. Abbiamo ragionato sui 200 anni venturi, prossimi venturi di evoluzionismo, non per dire come sarà l'uomo, come sarà il mondo tra 200 anni, ma per vedere quelli che sono i segnali che adesso abbiamo, le tracce, le impronte, come abbiamo metaforicamente fatto sul numero, per capire, per ragionare su come potrà evolversi l'uomo, la società, le relazioni dell'uomo, la conoscenza nei prossimi anni. Per rientrare sulla metafora del libro di carta o il libro digitale, noi oggi abbiamo la carta, abbiamo il digitale che non sappiamo come si evolverà. Sappiamo per certo che cambierà il modo nostro di approcciarsi con la cultura, col libro e così. Però non sappiamo se tra 10 anni non avremo più la carta, avremo tutti l'ebook e così. Quello che per riprendere. Quindi non sappiamo nulla sostanzialmente. Non sappiamo nulla, però dobbiamo confrontarci e dobbiamo cercare di capire. Il minimo comune denominatore di tutto è, come diceva qualcuno prima, è l'amore per i libri, per cui la capacità di approfondire, che rimarrà comunque una realtà, un uomo, ma delle relazioni, ma si evolverà in maniere al momento sconosciute. Però noi abbiamo cercato di trovare, l'abbiamo titolato l'interpretazione dei segni. Oh, questo non è il titolo della copertina. Della copertina, che ci dice: abbiamo dei segni che già oggi ci possono indicare in che direzione stiamo andando, sia per quanto riguarda, noi abbiamo preso 3 cose sostanzialmente: il corpo, per cui le relazioni dell'uomo con il proprio essere fisico, la conoscenza, per cui col pensiero, con quello che ha prodotto nel corso dei secoli, e nelle relazioni tra uomo e macchina, e questi sono i 3 filoni su quali abbiamo cercato di individuare i segnali che ci permettono di capire che cosa cambierà. E com'è andata? Com'è andata lo sapranno i lettori leggendo. Comunque, sulla carta, l'interpretazione dei segni è chiara: nel 2049 ci sarà forse l'ultima copia del New York Times, ma non l'ultima copia di Nova. No, andremo avanti 200 anni. No, comunque, no, c'è una cosa, perché a me poi restano queste cose da pallino. Cioè, la questione dei Radiohead non è andata così male. Cioè, mi hanno segnalato che 7 euro in media, cioè con l'offerta gratis. Sto guardando adesso anche su internet, si fa un prezzo di questo tipo qui, 5 euro, poi bisogna verificarla, per cui non è andata male. Ma io mi ricordo che persino Tom York disse che, insomma, questa cosa era stata un esperimento meraviglioso dal punto di vista, appunto, il lancio su internet e non su supporto di CD, però dal punto di vista economico non era stata pari. Ecco. Comunque, però noi stiamo salutando, insomma, questo, si stanno sfumando, diciamo subito che ci saranno anche iniziative per i 200 numeri di Nova su internet, su sole24ore.com, per cui animazioni grafiche, effetti speciali. A domani. Ciao ciao. Thank you.